FM. Probabilmente trascorrerete la festività natalizia in famiglia e magari a un certo momento avrete voglia di aprire il televisore e vedere un po' che cosa succede a Telemilano, che è la vostra stazione televisiva. Ebbene, oggi pomeriggio noi abbiamo tante belle cose per voi. Sentiremo tante belle canzoni, faremo delle interviste, vedremo dei film, vedremo degli shorts, ospiteremo dei cantanti, avremo dei bambini, ci saranno veramente tante belle cose. Nel test attitudinale di quest'oggi parlavamo di pessime previsioni sul futuro. A volte uno le fa e poi non vanno in porto. Sì, ma doppiamente pessime. Pessime perché totalmente sbagliate e pessime perché pessimiste al massimo. Spesso e volentieri sì. Ci occupavamo di una previsione che Variety fece in un articolo del 1955, ovvero forse, come ipotizzato nella A, disse: con quel ciuffo Elvis Presley non potrebbe piacere nemmeno a delle pensionate assetate di sesso? Beh, la previsione è senz'altro sbagliata, sì. Ma anche la risposta è sbagliata, non è mai stata scritta. Ipotesi B: il rock and roll, per colpa delle sue radici blues, verrà ascoltato solo da afroamericani. Anche questa è una previsione completamente fuori bersaglio. E razzistella pure. È molto razzista e peraltro completamente sbagliata. E allora, eccolo qui l'articolo incriminato. Nel 55 Variety sentenziò il rock and roll una moda passeggera. Sarà passato di moda entro giugno. Come al solito, sbagliò completamente. Variety, stai attenta che ti curiamo. Variety o Variety, ti abbiamo tanato. Aerosmith, Pink. I want to be your lover. Fai come vuoi, Steven Tyler. Sentiti a casa tua. Rappa in roba quando vuoi tu. 8:35 minuti primi. Pink is my favorite. quarta parte di PBR, ultima mezz'ora, inaugurata come ogni santo giorno dal test attitudinale. Benvenuti, benvenute voi che accendete la radio in questo momento. Vi siete persi una lunga puntata 147 che ancora ha delle zampate da lanciare. C'è una figura inquietante che si aggira nei nostri studi. Stai di là, Spadino, tienilo tu per favore, che a Freak gli viene l'angoscia se lo sente. Nel corso della terza parte, quindi 20 minuti fa tipo, un radioascoltatore disperato è venuto in diretta dicendo: guardate, c'è il mio vicino di casa dall'altra parte che in combutta con quello del piano di sotto hanno costruito un albero con le lucine di due piani, devo spegnerglielo, segnalatemi come fare. Ovviamente sono arrivate le segnalazioni. Molotov sul balcone del vicino, ditegli che illuminano di più. Lanciati sull'albero stile Rambo 1, vedrai che lo spengono. Così d'acchito, la prima cosa che mi viene in mente per spegnere l'albero è un bell'arco con frecce incendiarie. Io gliel'avevo detto all'amico che era inutile. Meglio della cerbottana è una 22, possibilmente con marmitta, con un paio di sessioni di tiro, avendo cura di indossare un paio di occhiali da sole. Il problema si dovrebbe risolvere. Ciao Lupo da Genova. Sono consigli da dare a chi ha un vicino dall'altra parte della strada con un albero che gli volete spegnere di luci. Cari amici, per me è il caso Bonci, dovremmo muovere la coscienza civica e mettere dei cartelli con scritto una frase ad effetto tipo: spegni l'albero e salva il pianeta, pirla, Paolo da Genova. Oppure, sono tutti di questo tenore i messaggi, Bonci, io te l'avevo detto. Perché spegnerlo? Dagli fuoco, chiedi danni, è tutto fatto. Io non ce la posso veramente fare. L'unica segnalazione che secondo me può interessare è questa che arriva da Lugo di Romagna, picco d'ascolto di Rock FM. Se vuoi fargli spegnere i soldi in luce nuova, svita una lampadina e vedrai che magicamente se ne spengono tutte. Questa segnalazione, Bonge, è importante perché se vai di cerbottana o di quello che vuoi, fondamentalmente seguendo questo consiglio basterebbe beccarne una. Cioè se ne becchi una a cascata potrebbero spegnersi tutte. E questa potrebbe essere l'unica segnalazione interessante che è arrivata. Le altre sono veramente da arresto, da codice penale, quindi è meglio lasciare stare, Bugo. Tieniti le luci del vicino e mettiti il cuore in pace. Don't stand so close to me, così, per ravvivare un po' la vostra mattina. Rinvivare non era male. Sì. 335-100-7777. Lamentele per il Natale 2007? Segnate pure, siamo qui apposta. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Time. Roberto, dura l'attesa del Natale, eh? Ci sono cose nella vita che non si possono, che non si possono fare nemmeno con il massimo della dedizione. Esatto. Sei stato a casa da Freak stanotte? Sì, mi sa di sì, però come mi ricordo molto. Come non ti vede? Ho fatto in testa, ho sentito, poi niente. Vede le occhiaie. E le vedevo un po' sbattute. Ho dovuto farlo. Il frugoletto si era attaccato alla boccia di Jack Daniels e ci dava dentro. Ma alla fine mi ha dovuto abbattere. Ci sta. Francesca, a quell'età però non si beve Jack Daniels. No, per carità. Ma è metal! Ma che cosa è metal? È metal Jack Daniels! No, metal! Sì. Metal! A proposito di metal, cosa visto? Bevono i Motley Crue? Motley Crue bevono whisky! Whisky ci sta. Whisky tequila! Sì. Invece no, Frick Antoni beve il chinotto. Chinotto. Anche tu dovresti bere chinotto. Chinotto metal con dentro gin. Insomma, va bene, volendo. Ma mi dai la mano, raga, io sono venuto qua, scusate. Sì. Devo fare i compiti. A mia maestra. Sì. Carmen Electra. Sì. Carmen Electra. Sì. Sempre amici con nomi strani, sì. Francesca. Carmen Electra. Hilton. Sì. Mi ha detto. Che dice? La mia maestra di italiano. Sì. Mi ha detto, fai un tema. Tema le due vacanze di Natale. Oh, è Rock FM. Descrivi Rock FM, no? Ho microfono, sono stato con Frick Antoni. No, ma siccome io mi vergogno con Ariel e con Frick, perché comunque voi siete tanto più grandi e questa pensa che poi mi rapite, invece io voi ci tengo, allora. Ma qua il problema è di tuo padre, non è nostro, è tuo padre che ti lascia qua, noi non c'entriamo niente. Perché io se scrivo tutte le cose che succedono qua, dopo siete nei casini, no? Ma non devi dire tutto, insomma, non vorrai mica raccontare allora, tema le vacanze, le mie vacanze metal. Va bene, questo è un buon titolo. Le mie vacanze metal. Allora, partiamo dall'albero. Hai fatto l'albero? Ho fatto l'albero con le bocce di marmo. Con le bocce di marmo. Dopo, praticamente, quando sto qua, mi nascondo sotto il tavolo. Sì. E quando arriva Claudia, sì, siccome non voglio vedere che c'hai Sise, a me non mi piacciono i Sise, lo sai. Vediamo anche se sono metal. Metal e Sise, ma a me non mi piacciono, perché a me mi interessa metal, okay. Noi Sise metal. Sì, sì, invece noi vorremmo vederla, questa tata. Vabbè, ma voi siete maniaci, lo so, sì, qua. Quando arriva Claudia? Quando arriva Claudia, gli fa la cianchetta sotto il tavolo, la fa cascare, e lei dice delle parolacce, non si può sporco, non si può dire. No, non si può dire, però. Lo sgambetto. Allora, scrivo, gli faccio le parolacce che Che dice Claudia, non le scrive. Dice delle parolacce. Dice delle parole. Si dice sgambetto. Sgambetto e dice le parole metal. Ecco, esatto, dice le parole metal. Qual è una di queste parole? Per favore. La più innocua. Frick, per favore, perché che domande fa? No, ma sono questo si punto mangia sono curioso. Ma dice mannaggia al metal! Mannaggia al metal, esatto. Vabbè. Porca metal! Esatto. Poi allora, sì, il tema poi dice, parla anche della tua persona preferita di Natale. Sì. Allora io voglio essere, Chi vuoi essere, Francesca? Io non voglio essere, lo dico un'altra volta perché ancora non me lo vedo. Però io vorrei i capelli. Vorrei i capelli di Max Deriu. I capelli di Max Deriu. Perché poi ci faccio le liane di Tarzan. Va in giro. Infatti Deriu si incazza perché io ancora non ce l'ho lunghi così. Perché ancora non c'ho avuto tempo. Bene, Francesco Rock FM. Allora tipo faccio le liane. Con i capelli di Deriu. Senti, ti va di andare un po' di là con e poi mi faccio la doccia sotto il naso suo. Sì. Così non mi bagno. Sì, effettivamente è un bel carattione. Senti, ma notizie dal papà? Free, lasciamo stare. Vai da Spadino di là. Regia, per favore, noi abbiamo una trasmissione da fare. Basta domani. Sì, vai da Spadino. Posso dare il Kalashnikov? No, non daglielo Spadino. Non dargli confidenza, Spadino. Little child, dry your crying eyes. How can I said you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we're all gonna live with love and peace. No more presidents, and all the wars will end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new Duse Giant Center vi augura buoni acquisti e vi ricorda che nel reparto bambini troverete Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere le richieste dei vostri bambini. Accorrete numerosi. Avanti un altro bambino o bambina che sia, avanti. Ciao Babbo Natale, ma allora sei ciccione veramente? Cara bimba, no, è una pancia per finta. No, no, sei proprio ciccione veramente. Ma no, il cuscino. Ma tu ce l'hai il cotone nell'ombelico? Ma no che non ce l'ho, ma chi ti dice queste cose? E mio fratello dice che i ciccioni hanno il cotone nell'ombelico. No, guarda, si sbaglia tuo fratello. Io, tra l'altro, non ho nemmeno tutta questa pancia. Ti pare? No, sì, Babbo Natale, questa è proprio vera. No, insomma, bambina impertinente. Guarda, sì, avevo la pancia perché ho partorito un elefantino e la proboscide è già venuta fuori. Sai cos'è la proboscide dell'elefantino, bambina? No, tu sei cattivo, io me ne vado dal McDonald's. Aspetta che ti spiego, bimba, vieni, vieni. No! Avanti un altro bimbo. Too much coke and too much smoke. Look what's going on inside you. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that laid on your arm. So take another toke, have a blow for your nose. One more drink, fool, would drown you. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell of death around you. Now they call you Prince Charming. Can't speak a word when you're full of blues. Say you'll be alright come tomorrow, but tomorrow might not be here for you. Con The Smell di Lynyrd Skynyrd che andiamo a terminare la puntata di quest'oggi. Archiviamo lunedì 17 di dicembre. Vi ricordo, come ogni giorno, potrete riascoltare, se ne avrete voglia, la trasmissione tra qualche minuto su RadioRockFM.com in streaming, oppure in podcast, o perché no, quattro interventi sul nostro spazio myspace.com/paneburrofm. Ricordo il mio indirizzo di posta elettronica attraverso il quale potrete contattare Pane, Burro e Rock and Roll, e volendo potrete richiedere il calendario 2008, l'anno della svolta. È molto semplice, il mio nome Ariel@radiorockfm.com. Ricordo agli amici milanesi che presenteremo il calendario 2008, l'anno della svolta, questo sabato all'Alcatraz di Milano. Qualcuno mi chiedeva ironicamente: sarà un casino come per le patenti da vero rocker? Beh, speriamo di sì. Questa è la risposta che posso darvi. Ultima segnalazione: Buon Natale per Rock, la nostra canzone di Natale, è sempre scaricabile gratuitamente da qui fino a Natale su su punkrockers.it. Se vi va, andatevela a prendere, è un regalo che vi fa PBR. È tutto per quest'oggi. Grazie per la sigla, caro Spadino. Grazie a Freak, grazie alla redazione, ma soprattutto grazie a tutti voi. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione torna domani. La tua colazione rock. Colazione rock dalle 7 alle 9 del mattino. Pane, burro e rock and roll. Ovviamente sulle magiche frequenze di Rock FM. E dove se no? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ovviamente, come è giusto che sia, il buongiorno va alla collega che segue PBR. Buongiorno Marco Garavelli. Buondì, buongiorno. Stavo pensando, hai visto, abbiamo fatto gli scemi settimana scorsa che quando arrivavi tu arrivava il sole, e oggi dov'è? E aspetta, dai, un po' in ritardo, perso il treno per Yuma. Cosa è successo? Arriva. Non ci sarà una giornata un po' coperta, forse è quella. Leggermente, visto che sul resto d'Italia c'è la neve, meno qua, siamo tranquilli. Ma sai che io non l'ho mica trovata la neve? Qualcuno si è lamentato da Firenze, però sì, che c'era dalla la parte di Firenze verso l'Adriatico e poi il sud. Sempre il reparto meteorologia. Dovremmo prendere un meteorologo qua a Rock FM. Dopo chi legge le carte, eccetera, ci manca solo quello. Può essere, va bene, ci penseremo, magari ci inventiamo qualcosa per domani. Vi lascio in compagnia di Marco Garavelli fino al mezzodì, noi ci si risente domani. Ciao! Ciao!